Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Provate a immaginare che cosa succederebbe se la vostra azienda venisse completamente allagata e la produzione si fermasse. Oppure se voi foste un'azienda alimentare e qualche buon tempone all'interno dei supermercati decidesse di inserire pezzi di vetro o di veleno nelle confezioni. Oppure anche se il vostro prodotto venisse giudicato non compatibile con l'ambiente e foste costretti a ritirarlo. Oppure ancora se arrivasse un terremoto che oltre a provocare dei danni vi blocca la produzione. Pensate che sto esagerando? Assolutamente no. Tutti questi sono rischi di business continuity che le aziende industriali produttive corrono tutti i giorni. E gli esempi che vi ho fatto sono ben precisi e sono anche molto vicini nel tempo. Pensate a quello che è successo alla Volkswagen quando si sono accorti che c'erano dei problemi nel software che monitorava l'impatto ambientale. Oppure a tutte le aziende della filiera del distretto biomedicale in provincia di Modena e di Mirandola che hanno avuto il terremoto, hanno dovuto interrompere la produzione. Oppure anche, e qui parliamo dell'allagamento, alla Ferrero. Per non parlare di casi che ci sono stati, la Ferrero era un'alluvione degli anni 90, per non parlare di casi che ci sono stati negli Stati Uniti più che qui, di gente che con la siringa iniettava veleno o sostanze sgradevoli negli yogurt che poi venivano ritirati da tutta la produzione. Insomma, parliamo dei rischi che corrono le aziende produttive. Rischi che nel mondo globale e interconnesso sono maggiori e assolutamente imprevedibili. Perché prima se succedeva un problema rimaneva localizzato alla zona di pertinenza del problema. Oggi se qualcuno inietta del purgante negli yogurt e la cosa esce sui giornali va in tutto il mondo e quindi l'azienda di produzione di quegli yogurt si deve fermare, deve perdere quote di mercato ed è costretta a un impatto improvviso con una situazione spiacevole. Oggi parliamo di questo che si chiama business continuity e mantenimento della business continuity e ne parliamo con un esperto che è Emanuele Cordero Di Vonzo, che è consigliere delegato di Assiteca e si è occupato per tutta la vita, prima era in Marsh, di gestione dei rischi aziendali e produttivi. E quindi ci dirà, dal suo punto di vista, quali sono i piani razionali che l'azienda produttiva deve mettere in atto per fronteggiare tutto questo. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, siamo tutti un po' più a rischio? Siamo tutti un po' più a rischio, l'ha già detto lei prima, sicuramente sia la tecnologia, sia il cambiamento climatico, sia le normative, i regolamenti e la regulatory internazionali mettono in una situazione molto più complessa le aziende produttive nel momento in cui dovesse capitare qualcosa e questo qualcosa fosse non previsto e non già pensato prima sul modo in cui questo possa essere affrontato. E nel mondo interconnesso e globale questo è molto più frequente come tipo di possibilità negativa. È molto più frequente e ha già detto anche lei prima bene, ha una risonanza poi estremamente forte. Il controllo di situazioni che poi si vanno a riflettere su mercati molto lontani da quelli nei quali l'azienda risiede può essere un'ulteriore evidente complicazione con anche situazioni legislative diverse e quindi reazioni diverse che uno Stato può avere rispetto ad un altro. Certamente, e infatti voi avete messo a punto una metodologia che, se non sbaglio, mi corregga lei, si chiama Business Continuity. La Business Continuity è una metodologia, sì, una technicality, se vogliamo, di modalità di affrontare questi scenari di rischio che siano evidentemente di carattere importante, cioè severi e cioè che in sostanza blocchino l'attività aziendale. Ce ne sono di vario tipo, perché se vogliamo scendere un po' più nel particolare ci sono situazioni appunto quali date da eventi naturali che possono bloccare la produzione, per esempio. Ci sono scenari che invece non bloccano la produzione, ma bloccano la possibilità di vendere. Sono quelli, per esempio, nell'alimentare, come si diceva prima, nei quali io non posso più vendere perché magari in un prodotto è stato trovato una sostanza nociva, non si sa magari da come questa sia stata introdotta, ma questo ha immediatamente un riflesso di blocco delle vendite, sicuramente in quel paese e probabilmente in altri paesi. E certo, negli Stati Uniti c'è stato il caso di quelli che li introducevano con la siringa direttamente all'interno dei supermercati. Assolutamente, ma anche situazioni non dolose, come possono essere, ricordo, bottiglie di champagne vendute in Cina, in cui furono trovati in alcune di queste, ma pochissime bottiglie, degli frammenti di vetro, che evidentemente si erano rotte il vetro nell'imbottigliamento dei tappi in questa fase. Quindi la Cina bloccò tutto, il Giappone pure, e furono costretti a ritirare tutte le merci, a riportarle in Europa, e da lì tutte le problematiche che questo è andato a comportare. E quindi come bisogna fare per ridurre questi rischi, che sono sempre in agguato e vengono amplificati dalla comunicazione? Ridurre questi rischi significa sostanzialmente studiarli prima. Il fatto veramente grave sarebbe di trovarsi impreparati di fronte a situazioni di questo tipo. Situazioni di questo tipo che possono quindi bloccare l'azienda, perché l'azienda lì per lì immediatamente non sa bene che cosa deve fare, come deve muoversi, come deve riprendere la produzione, oppure come deve affrontare i media, per esempio, con i comunicati giusti, con la rassicurazione o invece la richiesta di ritiro dei prodotti, con una serie di misure che però hanno un carattere di totale e assoluta urgenza. Ecco, sulla business continuity, la interrompo un attimo, ascoltate una breve scheda che vi definisce di che cosa si tratta. Un terremoto, un evento improvviso che mette a rischio la reputazione aziendale e può causare il ritiro dei prodotti. Un crack dei sistemi informatici, un attentato terroristico. Sembrano ipotesi remote da film o esagerazioni. Invece, in un mondo totalmente interconnesso, le aziende industriali sono sempre più esposte a rischi di questo tipo. Si può evitarli? Solo fino ad un certo punto. Quello che si può fare è però essere pronti a reagire, avere un piano ben preciso che minimizzi la distruzione di valore aziendale. Questo piano in italiano si chiama Piano di Continuità e in inglese Business Continuity Plan, BCP. Più che un documento, è un sistema organizzativo che, sebbene oliato ed efficacemente documentato, può anche aumentare il valore aziendale di fronte a investitori e stakeholder. Inoltre, il BCP ottimizza i costi assicurativi. Il BCP descrive la strategia di reazione dell'azienda ad un evento critico e le procedure alternative per garantire l'operatività, minimizzare il tempo di interruzione dei processi aziendali critici, ritornare alle condizioni operative standard a costi sostenibili. Anche se i programmi e le azioni contenuti nel piano devono essere dettagliati per poter organizzare rapidi interventi in caso di crisi, è opportuno che lo stesso sia comunque uno strumento sintetico e flessibile che funga da guida piuttosto che da regolamento. Il documento indicherà, tra l'altro, la descrizione dello staff di coordinamento e supporto, la responsabilità e l'organizzazione, il centro di emergenza e il suo equipaggiamento, le attività previste per affrontare la situazione di crisi, le procedure per assicurare la sicurezza delle persone e per comunicare con i dipendenti, clienti, fornitori e i mass media, i contatti dei clienti e dei fornitori critici, i luoghi alternativi previsti per continuare le attività produttive chiave, le risorse critiche aziendali necessarie di cui disporre durante una crisi, il piano strategico ed operativo di dettaglio per il ripristino di alcune attività, processi, servizi critici. Rieccoci in linea con Emanuele Cordero di Vonzo, dopo aver mandato in onda una breve scheda sulla business community, sulla business continuity, scusate. Stavamo dicendo che tutte le varie reazioni a eventi imprevisti devono essere veloci, e per essere veloci devono essere state predisposte prima, giusto? Assolutamente sì. Pensiamo al fattore alimentare, per esempio, che deve immediatamente, una volta scoperto il problema che si è andato a creare, deve immediatamente essere presa una decisione su quale reazione mettere in campo, se e quando avvertire le istituzioni sanitarie piuttosto che il ministero competente, e se predisporre subito o meno, o in quali termini, un piano di recupero dei prodotti dal mercato, il che vuol dire avere una tracciabilità interna dei prodotti. Questo ormai è una cosa quasi assodata, quasi tutte le aziende ormai lo fanno, in modo tale da sapere dove andare a trovare i prodotti che magari sono stati distribuiti dalla grande distribuzione. È una cosa non semplice, perché si tratta di definire dove questi sono e quali sono da ritirare, per esempio. Ecco, ma le aziende italiane sono pronte? Hanno un piano di rischi? Hanno un risk manager dedicato a queste cose? Ma noi in Assiteca due anni fa abbiamo fatto un'indagine di mercato su diverse centinaia di aziende e proprio sulla business continuity. Abbiamo separato le aziende grandi dalle aziende medio-piccole. Le aziende grandi hanno risposto con una organizzazione che abbiamo valutato e verificato essere molto importante e strutturata. Certamente le aziende medie e medio-piccole soprattutto hanno invece delle carenze dovute principalmente alla loro struttura, che non permette loro di avere professionalità interne dedicate, ma anche forse a un problema di cultura di base. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Emanuele Cordero di Vonzo, che è amministratore del gruppo Assiteca, che è un broker di assicurazione con una forte specializzazione, tra le altre, verso le aziende industriali. E il tema della trasmissione di oggi è proprio il rischio che in un mondo interconnesso, dove la supply chain è globale, viene amplificato e spesse volte le aziende industriali non ne sono consapevoli. Stavamo dicendo che è importante predisporre un piano ed essere veloce, quindi un piano che faccia l'analisi dell'impatto aziendale del rischio, giusto? Sì, un piano di business continuity che abbia quindi già prima creato un'analisi molto attenta, un assessment delle situazioni di rischio, degli scenari di rischio possibili per un'azienda, li va a misurare in termini di probabilità e di severità. Su questo discorso naturalmente i rischi di severità bassa vengono, diciamo, eliminati, ci si occupa di quelli di grande severità, e su questi si creano tutti gli scenari di possibili accadimenti, con evidentemente i risultati che questi accadimenti, le conseguenze che questi accadimenti possono comportare. Su questo si costruisce un piano che porti a definire a priori il tipo di reazioni, di azioni e reazioni che possono essere. Lo chiamano piano di contingency, no? Sì, esatto. Quindi questo è l'attività che può comportare tante cose diverse, ripeto, rapporti con i media, rapporti con studi legali per valutarne gli impatti di liability, di responsabilità, piani di reintegro della produttività, della produzione dell'azienda, perché possono essere state invece da un evento naturale danneggiate le linee di produzione, quindi verificare a priori dove questa produzione può essere ripresa in tempi molto rapidi per evitare di non avere più la propria merce sugli scaffali piuttosto che nelle attività di vendita in generale. In tutto ciò il ruolo dell'assicurazione qual è? Il ruolo dell'assicurazione è che, più che dell'assicurazione, è il consulente, il broker, come siamo noi, e quindi è di approntare questo piano, d'accordo naturalmente con l'azienda, e di aggiornarlo ciclicamente. Ogni anno si fa una revisione del piano, anche in seguito alle variazioni che possono essere intervenute nella struttura aziendale. La parte assicurativa poi c'è, perché le assicurazioni di business interruption sono assolutamente possibili e sono anche molto efficaci. La capacità di fornire immediatamente una liquidità all'azienda ancor prima che tutto lo scenario di danno in caso di... venga quantificato, sì, quindi un'anticipazione. Un'anticipazione molto importante nel giro di poche settimane dall'evento, perché dà respiro all'azienda che altrimenti si trova magari veramente in cattive acque. Ecco un'altra scheda sull'analisi dell'impatto aziendale dei rischi. I modelli organizzativi moderni e complessi delle aziende industriali sono anche quelli a maggior rischio di crash. Non è un caso se nella storia recente si sono fermate svariate industrie con modelli organizzativi just in time, lean production e lunghe catene di supply chain. Le filiere organizzative più snelle sono anche le più fragili. L'interruzione di una fase, la perdita di un anello della catena, la crisi di un solo fornitore può fermare la filiera o buona parte di essa, provocando danni imprevedibili, gravi e difficili da riparare. Recentemente, ad esempio, ciò si è verificato in grandi gruppi produttivi con strutture e supply chain sbilanciate verso il Far East, a seguito del terremoto giapponese o degli allagamenti in Thailandia. La ricerca della snellezza sostenibile passa dalla corretta conoscenza della catena del valore, delle sue ramificazioni, esposizioni, interdipendenze e relative vulnerabilità. Non è qualcosa che possa emergere dalla prospettiva del singolo sito industriale. Il problema di un sito produttivo, di un fornitore, di un percorso in un punto del mondo può provocare effetti nell'altro emisfero dell'organizzazione aziendale. Tutto ciò pone domande alle quali occorre rispondere in modo organizzato e strategico. Ci vuole un piano preciso che preveda risposte rapide ed efficaci, senza dimenticare le tempestive coperture economiche. I piani di business continuity servono a questo. Per scrivere piani di business continuity efficaci, occorre conoscere e definire le dinamiche dell'azienda e, al tempo stesso, individuare i processi e le attività che dipendono da una serie di elementi più o meno critici: strumenti e infrastrutture, risorse umane, partner nell'esecuzione dei processi. L'azienda deve essere scomposta nelle sue componenti fondamentali, estrapolando i processi produttivi di creazione di valore e quelli trasversali di supporto. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Emanuele Cordero di Vonzo sui temi del rischio aziendale, di come ridurlo, essendo il rischio aziendale molto elevato in un mondo interconnesso. Uno degli esempi è il rischio informatico. Capita a più di un'azienda che ci sono questi hacker che a un certo punto bloccano tutti i tuoi sistemi, tu trovi che proprio il computer svanisce, pop, vedi il nero e appare una scritta che ti dice: paga un riscatto e ti verrà ripristinata l'operatività dei computer, se no sarà tutto perduto e i tuoi dati andranno persi. Questa cosa, che sembra una cosa un po' da film, invece sta capitando e capita spesso alle aziende italiane. Ci sono quelle che pagano riscatto, normalmente usano le monete virtuali, Bitcoin o altri sistemi strani, sono poche migliaia di euro, però tu non sai se pagando riscatto veramente ti ripristinano l'operatività, e quelli che non lo fanno. Assiteca ha montato, in collaborazione con esperti di informatica e con compagnie assicurative, una polizza su questo, no? Sicuramente sì, anche in questo caso, che sembra un po' uno scenario da film, se vogliamo, come diceva prima lei, effettivamente sono situazioni che possono capitare un po' come la pirateria, no? di una volta, perché poi di pirateria si tratta in questi casi. Diciamo che l'impatto della tecnologia informatica sull'industria è oggi talmente forte ed è stato talmente rapido negli ultimi 10 anni che ha messo ben oltre la capacità di capire da parte dell'azienda, normalmente, di capire i rischi che questa sta realmente correndo, perché in realtà la tecnologia informatica è una tecnologia sostanzialmente fragile. Attaccabile, fragile, esattamente. Noi quindi abbiamo da un lato una partnership con società di soft, diciamo informatiche, esperte in informatica, che hanno definito degli assessment, anche in questo caso, sulla fragilità o meno del sistema informatico del cliente, dell'azienda, in modo tale da valutarne quindi la sua fragilità. Su questo si possono anche fare dei veri e propri penetration test, cioè dei test di ingresso, ovviamente non autorizzato nell'ambito del sistema, per far intendere anche all'impresa il livello di fragilità del suo sistema informatico. Sulla base di questo si costruiscono, da un lato, da un punto di vista informatico, delle attività di security per rinforzare in sostanza le mura di difesa del sistema informatico stesso. Dall'altra parte, naturalmente, coperture assicurative di largo raggio che coprono sia eventuali richieste di danno da parte di terzi, pensi al fatto che possono essere... di clienti che possono essere, i cui dati magari sensibili possono essere dati in pasto ai media, oppure di danni ai sistemi stessi, il ripristino di questi e tutto quello che ne consegue. Su chi è Assiteca, ecco una breve scheda. Fondata nel 1982 da Luciano Lucca, ancora oggi presidente e maggior azionista, Assiteca è il più grande broker assicurativo a capitale italiano ed è specializzata nella gestione dei rischi industriali. I broker sono degli intermediari professionali di assicurazioni che confezionano per il cliente un pacchetto di copertura dei rischi basato non solo sull'ottimizzazione dei costi, ma soprattutto sulla qualità e la consistenza del servizio a 360 gradi. Spesso, per raggiungere tale finalità, coinvolgono più compagnie assicurative e aggiungono al servizio una componente consulenziale. Assiteca è quotata al mercato AIM di Milano. I premi intermediati nel 2015 sono stati di 580 milioni di euro, con una forte crescita rispetto ai 380 milioni di euro del 2010. La crescita si spiega anche con una campagna di acquisizioni che la società sta perseguendo a ritmo serrato. Assiteca ha 566 addetti alle sue dipendenze, 3.800 aziende clienti, 24 uffici nelle principali città italiane ed ha sedi dirette a Madrid, Barcellona e Siviglia. Attraverso EOS Risk e Lockton Global Networks è inoltre presente in 100 città del mondo. Tra i settori di specializzazione, nel campo industriale, vanno segnalati quelli sulle energie rinnovabili, l'affinity, i rischi edili, la tecnica e i trasporti. Rieccoci in linea con Emanuele Cordero di Vonso di Assiteca. L'ultimo argomento che volevo trattare riguarda la legge sugli ecoreati. Voi direte che c'entra col rischio? C'entra, perché la legge sugli ecoreati estende la nozione di responsabilità in modo molto ampio e talvolta imprevedibile. Lei che ne pensa, dottore? Ne penso che il mondo industriale vada veramente sensibilizzato su questo, anche su questo. Ma come questo funziona questa legge? Beh, la legge è complessa, adesso sarebbe estremamente lungo e anche forse noioso raccontarla nel dettaglio, però la sostanza è che l'imprenditore o comunque colui che ha la responsabilità della conduzione di un'impresa ha non solo più delle responsabilità verso terzi nel caso in cui inquini i campi coltivati a pomodori di un contadino vicino al proprio stabilimento e quindi al ripristino, diciamo, del valore dei pomodori che magari sono andati perduti, ma su tutto l'impatto generale l'impatto dell'ambiente, che quantificarlo forse rientra un po' nelle opinioni. Diventa estremamente complesso la necessità di bonificare a proprie spese, quindi è un danno diretto a questo punto, non più verso terzi, è uno degli aspetti importanti, oltre al fatto che ci sono responsabilità di tipo penale. Quindi anche qui queste sono leggi relativamente nuove, di poco tempo fa. Credo che noi pensiamo che soprattutto la piccola e media impresa abbia la necessità di essere assistita su questo. Sia e quindi voi avete predisposto un prodotto? Abbiamo predisposto un prodotto particolare, pensiamo che tutte le aziende debbano avere una copertura sul rischio, le aziende di produzione che abbiano un minimo di rischio di questo tipo, debbano avere questo tipo di copertura perché è un tipo di danno eventuale che può essere non prevedibile nella sua dimensione facilmente e quindi tipicamente da trasferire a un assicuratore. Certamente. E il tempo purtroppo è tiranno, la dobbiamo salutare. Arrivederci, dottor Di Vonzo. Grazie. Arrivederci agli ascoltatori.